Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Ci siamo, caro Oscar! Eccoci qua. Questo martedì 16 febbraio, le 8:18. Santa Giuliana. Santa Giuliana. Protettrice dei malati e protettrice delle partorienti. Nessun riferimento all'unione civile, non si sa se per quale tipo di unione fosse Santa Giuliana, però Santa Giuliana non voleva sposare un pagano, quindi l'hanno appesa per i capelli. Insomma, il martirio ve lo risparmio perché è abbastanza impressionante, è molto cruente. E tra gli altri oggi festeggiati Sossio, Elia, Geremia, Isaia, Samuele e Daniele, cioè un'infilzata di profeti, ce li siamo messi tutti oggi. Tutti lì oggi. Vabbè, è il giorno dei profeti. È il giorno dei profeti. Qui Oscar avremo ospite Stefano Parisi alle 8:40, il candidato per il centrodestra alle comunali di Milano, candidato sindaco. Parleremo tra poco anche con un questore del Senato. Noi vorremmo tornare a parlare di questa cosa della reversibilità. Hai visto come ha scaldato, no? In Italia appena si tocca le pensioni, dicevamo ieri, tutti... Infatti Poletti in poche ore ha già dovuto smentire qualunque intervento. Ma perché io dico smentire? Ma non si può fare un dibattito pacato, pubblico, e poi dire anche no, scusate, abbiamo fatto effettivamente dei calcoli, ci siamo sbagliati. Oppure invece... le ragioni per un intervento serio, perché io sono su questa seconda posizione. Naturalmente travolto, però ho scritto per l'ennesima volta, siccome sostengo da anni questo tema sul Messaggero, l'ho riscritto, non servirà a niente, ma comunque. Perché i partiti pensano, tutte le proposte di legge depositate in Parlamento sono per aumentarla le pensioni di reversibilità, come sono per abbassare il tetto per andare in pensione, perché ci sono le elezioni. I partiti dicono, ragazzi, sì, guarda, è questo il tema, perché tanto chi paga sono i giovani, che non hanno anzianità contributiva, non avranno le pensioni retributive e pagano più alti contributi della generazione dei padri. Nel sistema a ripartizioni, cari ascoltatori, tutto quello che viene chiesto di essere dato in più oggi viene pagato dai giovani oggi. Non mi fate il discorso, noi abbiamo un contratto, abbiamo versato i contributi. I vostri contributi sono stati utilizzati allora. Anche perché il tema è sempre questo. Volete discutere tutti i 40 anni di una vita di sacrifici, ma voi non sapete, cari ascoltatori, quante mail ci sono arrivate di storie paradossali, perché è su quelle che bisognerebbe incidere, di persone. Uno per esempio ci ha scritto, io ho mia zia, vedova da anni, vi assicuro che ha possedimenti terreni, case, proprietà, perché bene, buon per benissimo, lei, benissimo, e prende ancora 3.000 euro al mese, perché appunto è una vedova. Ha senso che viva con 3.000 euro al mese, oppure le possiamo ridurre a 1.500 magari, perché tanto visto il patrimonio... Uno dei criteri che il governo nega, a cui nega di aver pensato, io dico purtroppo, è quello di utilizzare l'ISEE per nucleo familiare dei percepienti. È così sbagliato in un'Italia dove il problema della povertà c'è davvero, dove il problema dei giovani che non hanno un lavoro c'è davvero? A me non sembra sbagliato. Sai qual è la questione che pongono alcuni giornali? Vabbè, ovviamente fanno anche il ruolo politico come giornale, Libero, dicono, beh, ma insomma l'ISEE tiene conto anche di polizze, risparmi, case, cioè uno ha una casa, uno ha una polizza, uno ha un risparmio, rischia così, secondo questi indicatori, di vedersi decurtata la pensione di reversibilità. Non ho capito. No, io sono perplesso perché questo argomento è veramente singolare. Cioè, noi da una parte vantiamo che gli italiani hanno questa cosa del più grande patrimonio, poi pretendiamo che non conti. È più forte di me, non la capisco questa cosa. Non capisco chi agita questo argomento, perché è un argomento agitato in malafede. È chiaro che è subito diventata una questione elettorale, come dici tu. Ci sono le elezioni, basta vedere i giornali. Beh, per la verità, i giornali anche di sinistra, anche il Manifesto. I voti mica si sono solo da una parte. Le pensioni, non toccate su questo, le pensioni. La destra e la sinistra la pensano in Italia allo stesso modo. Guarda, contro l'elevazione dell'età, pensiamo alla Fornero, c'è la destra e c'è la sinistra, uguale. quello che ieri ha bloccato Poletti con le parole più dure è stato Cesare Damiano, il presidente del PD, ex ministro del PD, che della dice commissione, il governo chiarisca su che questo punto. Lui è per tanto per cambiare, alzarle le pensioni di reversibilità. Poi naturalmente che ogni anno dalle tasche della fiscalità generale ci sono 90 miliardi che vanno al bilancio dell'INPS. Questo se lo dimenticano tutti, perché questo è. No, perché la sensazione che è subito fatta passare è questa. Vedi Damiano sulla stampa, i pensionati sono il pozzo di San Patrizio, basta. Cioè tutti dicono, si dà l'idea che uno che ha 800 euro di pensione te la tocca. Si rapinano le vedove, invece si rapinano le vedove. E ripeto, nel nostro ordinamento funziona che... La reversibilità va data anche, si separano i coniugi se c'è l'assegno di separazione e di mantenimento, divorziano, c'è l'assegno divorzile, va alla coniuge divorziata, se mi risposo va alla seconda e alla divorziata, cioè alla prima, se io muoio va alla prima e alla seconda, se io mi sono risposato va alla prima e alla seconda, se si risposa anche lei, prima di levargliela gli danno 2 anni di trattamento. Mi spiegate, ha senso? Ma poi, dai, sai che c'è un altro argomento, per esempio lo ha portato avanti Sacconi, anche lui ex ministro, che dice ma come, proprio nei giorni in cui col DDL Cirinnà rischiamo Sacconi, di dar la reversibilità alle coppie omosessuali, sì. Che paradossalmente c'è, le diamo alle coppie omosessuali, le togliamo e le riduciamo è logico, coppie. Ma mica solo per questo abbiamo introdotto il divorzio breve, 6 mesi di separazione per le consensuali, 12 per le giudiziali. Siccome l'abbiamo indebolita la famiglia nel nostro ordinamento, come si vede, ha senso diminuirne anche il presupposto reddituale per i sopravvissuti. Faccio un altro esempio: l'assegno divorzile è diminuito, fatto 100 pari a quello che il giudice riconosceva 15 anni fa, oggi lo riconosce pari a 30. Allora, se in via di giurisprudenza è diminuito di 2/3 l'assegno di mantenimento, ha senso che anche legalmente indeboliamo la pretesa di reddito con una famiglia indebolita. Io ci vedo una logica in questo, perché non sono per tagliare tutto a tutti. No, ma no, bisogna andare a vedere quei casi, la famosa nonna di Renzi che prende 3.000 euro al mese. Bravo. Citata dallo stesso Renzi. Bravo. Ci chiama Marco dalla Spezia, vediamo un po' che ha da dirci. Marco, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Posto? Come no, è qua. Ah, buongiorno. Senta, no, io vorrei capire, perché astrattamente posso anche essere d'accordo con la proposta, però in pratica qual è il principio prevalente? Il sistema contributivo, quindi io ho versato dei soldi e quindi teoricamente ho accumulato un diritto a percepire una tale somma, oppure vale più il principio della mia situazione familiare e allora il tutto dovrebbe succedere a prescindere di quanto ho versato in precedenza? Caro ascoltatore, che come al solito la convinzione che avete, che voi avete versato e ci avete un contratto su quel che avete versato, è una convinzione, perdonate, che fa a pugni con il sistema, che è a ripartizione. No, ma è io chiaro. Sono d'accordissimo, allora, però fino adesso è prevalsa questa cosa. Non è vero che è prevalsa, le faccio un esempio. Non è vero. Tanto potrà parlare dopo. Quante persone intervengono parlando di diritti acquisiti e parliamo di pensioni veramente alte? E sbagliano. Accidenti, fino adesso abbiamo ascoltato solo questo argomento, diritto acquisito. Ora io faccio un'altra proposta. Allora, uno ha diritto alla pensione a prescindere in quanto è vivo, in quanto è ancora in vita. Cosa deve finire, cessare la vita una volta che... Ma è la quantificazione produttiva? Il problema, è la quantificazione della pensione. È una cosa assurda. No, è una cosa assurda. No, abbia pazienza però, si faccia rispondere, abbia pazienza. Oggi la pensione di reversibilità noi la diamo mica solo a chi muore dopo aver riscosso la pensione. Tanto non funziona come dice lei, ma funziona con pagata a deficit. Noi la diamo anche a chi lavora e ha almeno 15 anni di contributi. Anzi, la diamo a chi ha 15 anni di contributi, anche se negli ultimi 5 ne ha versati solo almeno 3. È tutta in deficit questa roba. Quello che ripetete voi, ma come, io ho i contributi? Mi dispiace, non funziona così il nostro sistema. Comunque, insomma, questo è un tema. Adesso l'ascoltatore dice: vorrei capire la proposta. Forse non arriveremo neanche a capirla, allora, perché la polemica è talmente divampata un po' all'italiana, ancor prima di capire poi nei dettagli la proposta, che chissà se si avrà il coraggio di esporla e andare avanti. Oppure no. Comunque, caro Oscar, ieri un ascoltatore ci ha detto: ma tra l'altro, invece per i politici, per i vitalizi, non è così. Ma i vitalizi, l'abbiamo detto, non sono una pensione. Bravo. Però lì il vitalizio vale anche per nipoti, fratelli, zie, adesso non sto esagerando. No, ma non è per questo motivo che abbiamo chiamato uno dei questori del Senato, che è il senatore Antonio De Poli di Area Popolare. Buongiorno, buongiorno senatore De Poli. Buongiorno a voi. Il motivo è che Oscar Giannino l'altro giorno l'ha detto anche abbastanza, ha detto dovremmo un giorno mettersi tutti pacificamente un migliaio di cittadini, sì, per impedire ai senatori di entrare al, sì, Senato, così con un cordone pacifico. Sì. Così almeno per quel giorno non possono fare i furbetti lasciando, sì, il badge nello scranno e risultando presenti anche se non lo sono. Visto che loro votano la legge, io sono d'accordo che in 48 ore ci fa licenziare chi col finto badge fa il furbetto, il dipendente pubblico, siccome si appropriano invece in maniera altrettanto artificiosamente mistificante il truffaldino della diaria col badge lasciato lì, la mia opinione è che dovrebbero decadere come dipendenti licenziati, siccome incostituzionalmente non si può, siccome c'è l'autodichia, siccome decidono loro, dice, e fregano quindi i soldi. Almeno ci mettiamoli davanti, muti. Senatore, questo è il clima. Sì, buongiorno. Questo è il clima, perché io ho ospitato un senatore, suo collega, che ha detto che vede il 10-15% dei intanto colleghi. Ci dica, esatto, non neghi che c'è questo problema, ce lo quantifichi. Allora, al di là delle considerazioni, però, in modo molto preciso, c'è un regolamento ben preciso che parte dal presupposto che al Senato ci sono, come dappertutto, voglio dire, anche alla Camera, tre voti, astenuto, favorevole, contrario. L'astensione al Senato è voto contrario, chiaramente, sì, rispetto alla Camera, che invece non è così. Questo significa che per il regolamento, no, però non ce lo ridica, Senato, sì, si è introdotto l'idea del presente non votante, lo sappiamo, però la domanda è, ci dica, c'è gente che mette i badge e si fotte i soldi? Un collega senatore, allora, del gruppo Autonomia ci ha detto sì, tra il 10-15%. Lei cosa risponde? Ma io non so, sono tra il 10-15%, io dico solo una cosa, che la Presidenza con i segretari d'aula hanno l'attenzione, il compito, e devo dire che Grasso l'ha fatto, ha richiamato anche per chi votava per altri, eccetera, che non è il caso specifico, ha il compito adesso ancor di più di stare attento, che se c'è una tessera inserita ma non c'è la persona, sì, deve levargliela, punto. Ma deve levargli cosa? Levargli che cosa? Levare cosa? La diaria? Levare la diaria? Levare in primis la tessera, quello che è la tessera, perché non, ecco, può più votare, tanto per essere chiari, e di conseguenza dopo ci possono essere le sanzioni, tipo, no, come quelli che non sono presenti durante la giornata, che viene levata la, no, diaria. Certo, ma ad senatore, qual è il dubbio, il dubbio che hanno i cittadini, che possa finire a taralluce e vino, perché voi avete avuto l'incarico col falso badge, li licenziamo, no, i dipendenti pubblici, lei li vuole levare, è, il badge, non è che noi abbiamo avuto l'incarico per quanto riguarda questo tipo di situazione, è per lo statuto, per il regolamento del Senato, la Presidenza dà incarico ai segretari d'aula, sì, che sono quelli che hanno il compito di dare una mano al Presidente quando ci sono chi vota, chi non vota, eccetera, di controllare questa cosa. Io credo che oggi, questo è il mio pensiero, il Presidente dia un'indicazione precisa rispetto a queste cose, poi aiutati dagli assistenti per controllare se c'è un badge e non che c'è lì la persona. Però guardi, credo, senatore De Poli, prioritario, secondo me sarà un bel giorno quando ne pizzicherete uno, perché ci sarà uno, e verrà data la notizia che la diaria di quel mese verrà dimezzata. Ma non senti il tono con cui parla? No, vedremo, chiederemo agli assistenti. Vabbè, no, non è questo, c'è dire, sfiducia, come, c'è se sfiducia, lei vuole sostituirsi, certo, gli altri, questa è la cosa precisa. No, io non voglio sostituirsi, dico che il giornalista del Messaggero, allora, Claudio Marincola, ha le testimonianze dei commessi d'aula che raccolgono tutti i tesserini che rimangono là. Se ce l'hanno i commessi d'aula, voi che siete organi del Senato dovreste saperlo. Se ricominciate da capo, state coprendo i colleghi che rubano. No, questa è la mia opinione. Lei non me la fa cambiare. Guardi, se vogliamo metterla ad urlare, mettersi a urlare, fare, certo, una cosa contro l'altra, siccome paghiamo noi, mia, sa com'è, non paghiamo, è la noi mia funzione, io le sto, certo, dicendo quali sono le modalità, era molto precisa. Se dopo crediamo che queste modalità non avvengono fatte, eccetera, io credo che invece, vabbè, il Presidente in primis, che ha il compito di far sì che l'aula vada nel migliore dei modi, e nel caso specifico i segretari d'aula, che sono due, che sono lì, eccetera, nel momento in cui si accorgono assieme con gli assistenti vanno a ritirare le schede e parte la sanzione. Però ci dica, c'è la cosa, ecco, ci dica. È come dire, se uno lungo strada non mantiene il limite di velocità, si fa la multa, pure 200 si fa la all'ora, multa. Se si prende devono essere... Però no, la notizia è che è venuto fuori il problema da un articolo del Messaggero. Questa è la cosa, io credo che su questa cosa ci siano le no, ma la questione, le regole, senatore, le indicazioni tali da poter intervenire nel mio dei è un po', va bene. Io penso e credo che il Senato faccia questo. E infatti è un po' singolare, insomma, che lo scopra un articolo del Messaggero con Marincola e non sappiate voi. Non chi è seduto di fronte all'aula tutti i giorni. Ci dica per concludere che cosa ci dobbiamo attendere per Oscar Giannino, nulla, ma ci dica, non so, farete una relazione, ci sarà un punto in cui non so, ci dica un momento, un giorno in cui la richiameremo e ci direte abbiamo fatto degli accertamenti, è così. Il punto è tale atto perché nel momento in cui ci siano delle rilevazioni tali che ci siano, che questa cosa è nei fatti, sì, e lo vanno a indicare, noi interverremo nel merito, noi nel senso Consiglio di Presidenza, sì, perché nello specifico noi questori abbiamo il compito di far sì che l'aula non abbia disordini, chiaramente, non chiaro. Tanto è di conseguenza, essendo assenti c'è un ordine assoluto, guardi. No, dice, essendo assenti c'è un ordine assoluto, no, una battutaccia, credo che siamo gli unici che siamo lì, questo è un altro ragionamento come compito della cosa, ma dicendo, cioè, essendo c'è grande assenza generale, ho capito bene, non era riferita a lei. Su questa cosa vedrete. Un giro di vita importante. Vabbè, senatore, noi la ringraziamo e la richiameremo a capire che quando succederà qualcosa. Ricordiamo Antonio De Poli, area popolare, uno dei tre questori del Senato. Ci sono tre questori al Senato, tre questori alla Camera. Sono poi senatori, non è che sono questori nel senso, la gente dice che sono funzionari di polizia. No, sono, si chiamano questori, ma sono tre senatori. Caro Oscar, non hai fiducia nella politica. Rita da Roma, dai, che poi dobbiamo andare in pubblicità. C'è Stefano Parisi. Rita, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci. Volevo intervenire in merito al discorso delle reversibilità. Vogliamo parlare di questi vecchietti che sposano le giovani badanti? Ne abbiamo parlato. Insomma. E che dobbiamo fargli? Glielo dobbiamo impedire? No, non possiamo. Non glielo possiamo impedire, però a livello badanti, di reversibilità bisogna vederle queste cose. Non mi sembra assolutamente capito. Però adesso spezzo una lancia per i vecchietti e per le badanti. Adesso non ho capito. Cioè, perché se uno sposa una badante a 65 anni, dobbiamo discriminare la badante perché ha scoperto l'amore. Ho capito, ma chi sei tu per andare a sindacare sull'amore? Chi sono io? Rita, lei cosa farebbe? Decurterebbe alle badanti così per legge? Assolutamente sì. Proprio. Anche perché un po' discriminatorio, però. Non è discriminatorio, lo fanno loro le discriminazioni. Io le parlo di un'esperienza che ho avuto. Un mio cliente aveva il padre rimasto vedovo, 80 anni, sì. La badante russa, lui si è innamorato di questa donna e voleva sposarla. Questa donna, per sposare il padre, pretendeva un lascito perché la pensione era bassa, certo, e non gli bastava, per cui voleva che gli venisse intestata la casa. Però Rita, da una storia singola non possiamo trarre una legge che valga per tutti, cioè questo voglio dire, posso capire, sono tante le storie come queste, immagino, Rita, però non è che possiamo da questo fare una legge generale che valga per le badanti. Però attenzione, possiamo, per esempio, se si fa un discorso serio, che mi auguro non ci sarà, abbiamo detto niente, però potremmo mettere come criterio anche quello dell'età anagrafica dell'occupabilità. Perché quando ci sono 50 anni di differenza è troppo. Tu capisci che un criterio sull'occupabilità, come si fa per i diversi criteri di altri strumenti di assistenza, sì, che sono graduati nel tempo, così sarà con l'ASPI, eccetera, cioè. Graduati nel tempo, dopodiché devi lavorare, altrimenti ti decade. Quindi la signora, in realtà, un punto affronta generalmente, non si può fare legge dicendo, esatto, badante, no. Badante no. Però l'età, la differenza mentre d'età moglie, potrebbe essere. Sì, Dai, oggi è scatenato Oscar. No, moglie sì, ho detto. Moglie sì, certo, perché non c'è una telecamera che fa vedere i gesti. Moglie sì, no, rimane agli atti, scripta manent, audio manent, moglie sì, rimane ai gesti. gesti visti da me, un moglie no. Questo no, voglio dire anche, nel caso della moglie, se ci fossero 50 anni di differenza, secondo me bisogna... Vabbè, dai, tra qualche minuto ci sarà i nostri microfoni Stefano Parisi, il candidato sindaco di Milano per il centrodestra. State con noi. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. E allora, caro Oscar, eccoci. Le 8:40 minuti in punto. Nel paese dove lo Stato non ha emanato il decreto per far pagare il canone RAI ai gestori elettrici, non sanno come fare, ma ci fregheranno, ci fregheranno. Però anche i gestori elettrici, il nostro amico Chicco Testa, c'è tempo fino a luglio. Sarà un grande casino, però il Presidente del Consiglio si è scritto il merito del Festival di Sanremo nella sua nota ieri sera. Ah, questa mi era sfuggita. Ti era sfuggita, io invece gli ha fatto un grande ringraziamento, la nuova RAI, eccetera, eccetera, e va bene. E c'è anche, no, giusto perché così, secondo me la notizia del giorno è il gossip su Nicky Vendola. Nicky Vendola starebbe per, io ho usato coronare un grande sogno. Esatto, ho detto per avere un figlio. Subito c'era Dinolfi, comprare un figlio. Vabbè. Cioè con la maternità surrogata starebbe per avere un figlio Nicky Vendola. Starebbe per nascere proprio a settimana. Da anni io sapevo che era una sua ambizione. Però non è confermato, però è un rumor, diciamo così, un gossip. Se fosse, io gli farei gli auguri, però questa è la mia opinione personale. Vabbè, magari ne parleremo. No, perché vedrai che come puoi immaginare. Ci saranno tante polemiche. Come puoi immaginare. Con noi però c'è Stefano Parisi, che è il candidato sindaco di Milano per il centrodestra. Buongiorno. Che noi salutiamo. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Parisi. Buongiorno a voi. Ho letto in un'intervista che ha parlato di decisione sofferta. Come mai sofferta questa decisione? Faccio un po' la provocazione perché il centrodestra è un po' in difficoltà? No, è sofferta perché dal punto di vista personale non era nei miei programmi minimamente e quindi non si aspetta. tutto un altro percorso davanti a me e quindi l'idea di essere chiamati a svolgere una funzione politica per trasferire le proprie capacità, le proprie competenze, la propria esperienza nella gestione della cosa pubblica in una città importante come Milano è una... Perché lei ha un percorso insieme pubblico e privato, cioè lei è stato Palazzo Chigi come tecnico di supporto ai politici, è stato city manager a Milano, è stato imprenditore privato in Fastweb e in Cili, è stato in Confindustria direttore generale, cioè alla fine conta più il pubblico o più il privato rispetto a Sala, che anche lui è un tecnico, vi sovrapponete, siete simili o siete diversi? Beh, io ho una lunga esperienza nel settore pubblico, inizio dopo una breve parentesi nella CGL, al centro studi della CGL, inizio una lunga, più quasi 20 anni di lavoro nella pubblica amministrazione. Aver poi trasferito, poi essere passato nel privato con funzioni importanti, credo che il mix di queste due cose sia molto importante, no? Perché la pubblica amministrazione va resa efficiente e per renderla efficiente bisogna conoscerla, non basta soltanto applicare le tecniche della gestione privatistica al pubblico. Cioè lei dice che la conosce meglio di Sala, però Sala ha fatto l'Expo. No, non faccio gara su questa cosa perché mi sembra una sciocchezza. Dico che io ho avuto una lunga esperienza, lui un po' più breve. E poi la gara la dovrà fare. In meno tempo ha preso di più di 4 minuti. No, la gara la dovrà fare anche perché Sala battuta che circola. No, non su questo. Sala battuta che circola a Milano, Parise. Cioè dire, ma due manager, entrambi tra l'altro in passato, con city manager di Milano per giunta di centrodestra. Si attende il candidato del centrosinistra a questo punto. Ti dicono, due manager per tacere del terzo, cioè passera. Però vabbè. Vabbè, certo, e poi c'è il candidato ovviamente anche del 5 Stelle, non dimentichiamo. Che Milano ha in mente? Che Milano ha in mente lei, Parisi? Beh, intanto una Milano che ricominci a pensare al proprio futuro e a investire sul proprio futuro. Non è uno slogan, nel senso che io ho lasciato Milano con la giunta Albertini, Milano dal punto di vista della gestione amministrativa, poi sono rimasto a vivere a Milano. E allora c'era una grandissima progettualità. Tutto quello che oggi voi chiamate, che si chiama Miracolo Milano, è tutto effetto e frutto di quello che fu fatto allora da Gabriele Albertini e dalla sua ricca giunta, che è ricca dal punto di vista professionale e imprenditoriale, perché tutti i grandi progetti, dalle metropolitane alla riorganizzazione urbanistica, sono tutte decisioni prese allora con una visione al futuro. La stessa riorganizzazione profonda della macchina comunale che implementammo allora in quegli anni è rimasta lì, non è successo più nulla. Cioè lei dice che l'eredità di Pisapia non è una grande eredità. No, direi che la giunta Pisapia, oggi troveremo i cassetti vuoti della giunta Arancione, perché non c'è progettualità, non c'è stato guardare al futuro. E questo credo che sia un tema importante per Milano. La seconda cosa che io vedo Milano è che Milano riprenda a essere la guida di se stessa. Troppe decisioni sono state prese in questo periodo su Milano, che riguardano Milano e che sono state prese a Roma. In primis l'area metropolitana. Io penso che questo gigantesco conglomerato amministrativo non aiuterà gli amministratori di Milano a concentrarsi su Milano. Il sindaco di Milano è anche sindaco dell'area metropolitana e quindi è sindaco di un'area molto vasta, con moltissimi comuni che non votano per questo sindaco. Quindi si rischia veramente di defocalizzarsi e di deconcentrarsi. Certo. E inoltre l'area metropolitana ha il difetto che appunto è un gigantismo amministrativo, mentre invece io penso che la soluzione, l'ho sempre pensato anche 20 anni fa, che la soluzione sia una soluzione di sistemi a rete, non di togliere autonomia alle amministrazioni. Ecco, Parisi. L'altro esempio importante su Roma, su quanto Roma pesa su Milano, e Giuseppe Sala è un candidato espresso da Palazzo Chigi, e quindi ci fa pensare che il futuro sarà peggio così se qualora fosse eletto, è il fatto che è l'Expo, il dopo Expo. Sì. In questi giorni a Palazzo Chigi si firma il dopo Expo tra un ente di ricerca genovese, è vero, e Palazzo Chigi. Anche lei nota questa cosa sbagliata, cioè ci vorrebbe più Milano, per esempio. No. Più Milano. Milano c'è, ci sono le migliori università europee. Ora che si vada a scegliere un centro di ricerca, ancorché eccellente, che sta situato a Genova, non e che i milanesi e la giunta di Pisapia, guardato a questo fenomeno in totale passività, mi sembra un peccato. Senta, le cose che poi incidono sui cittadini sono, una per esempio è quella del traffico, la grande questione del traffico. Traffico e tasse. Esatto, tasse e traffico. Lei ha un piano per esempio per disincentivare l'uso dei mezzi pubblici? Aveva fatto un po' scalpore anche la candidata Balzani del centrosinistra, attuale vice sindaco, che aveva detto... trasporti di superficie gratuiti e per poi prese l'impegno di dirci dove prendeva i soldi, che non ha mantenuto, non ha dato la cifra. Però ci dica lei il traffico come lo vede, le piace ad esempio la zona traffico limitato in centro, la vorrebbe estendere, che progetti ha? Dunque, innanzitutto bisogna togliere di mezzo il populismo. Noi saremo seri e diremo cose in campagna elettorale che saranno poi realizzate dopo. Dire biglietti gratis per tutti è una terribile presa in giro delle persone, perché è evidente che non si può fare e gli elettori non devono essere presi in giro, non è giusto. Credo che bisogna incentivare l'uso di mezzi alternativi all'auto, che non sono solo pubblici, a Milano il sistema dei trasporti pubblici funziona abbastanza, bisogna molto incentivare metropolitane e migliorare la qualità del servizio anche in superficie. Bisogna però anche molto guardare allo sharing nell'attività, nel trasporto. L'esplosione che c'è stata a Milano, che è stata una città ormai presa a riferimento in tutta Europa, del car sharing, è molto interessante, dobbiamo andare in quella direzione. Per esempio, lei non è contro Uber, sa che molti tassisti ci ascoltano, Parisi? No, ma figuriamoci, io vedo in tanti paesi in giro per il mondo, compresa Londra, compresa Israele, dove io vado spesso, eccetera, vedo che i tassisti sono stati, loro stessi hanno avuto un miglioramento del loro servizio utilizzando piattaforme di geolocalizzazione che rendono più facile e più efficiente il loro servizio. Il tema non è di bloccare lo sviluppo, il tema è di cavalcarlo. I tassisti potranno avere più mercato. Il problema del taxi è il problema di queste piattaforme di geolocalizzazione, vuol dire portare il servizio da dove c'è la domanda e non costringere la domanda ad andare dove c'è il servizio. Il problema è un eventuale sindaco capace di regolare e cavalcare insieme i diversi segmenti dell'offerta, invece che dire ci deve pensare Roma e nel frattempo qua ci si picchia. Scusate, io ho conosciuto abbastanza bene da vicino, perché l'ho studiata come potenziale imprenditore, poi non sono riuscito, il tema del car sharing. Io penso che c'è una domanda a Milano di mobilità alternativa all'auto enorme, rispetto alla quale non si dà una risposta. Allora i tassisti, il car sharing, i mezzi pubblici, tutto questo devono essere ripensati su piattaforme digitali che portino i mezzi dove la domanda esiste, e questo abbasserà l'inquinamento, migliorerà la mobilità tutto basato sulle tecnologie. A Milano questo siamo ancora idee come il blocco del traffico, lei come le prende quando vengono intraprese da Pisapia? Anche posso dire che sembra una cosa quasi come i biglietti dell'autobus gratis, cioè è una cosa che non ha nessun effetto, abbiamo dimostrato, cioè è dimostrato dai dati, dalle statistiche. Poi è bellissimo girare per la città in bicicletta, figuriamoci, però non è che si può fermare l'attività economica, l'attività commerciale, eccetera, solo su un annuncio populista che non ha nessun effetto. Il problema dell'inquinamento è un problema di lungo periodo, bisogna ripensare ai sistemi di riscaldamento, all'inquinamento che viene derivato dalle attività industriali intorno nella Padula Padana, al miglioramento dei flussi di traffico, per l'appunto, come dicevamo prima, e quindi all'ottimizzazione dei mezzi di trasporto. Non far nulla per 5 anni e poi negli ultimi 6 mesi, siccome non piove per 2 mesi, da un lato augurarsi che piova. Senta, io le faccio una domanda politica, perché lei ha detto che Sala è Renzi, e questo si è visto nella scelta. Le faccio una domanda sul suo campo. Cioè, si può dire con lei che la sua candidatura a Milano, perché altrove il centrodestra ha dei casini infiniti, basta vedere Roma e così via, divisione tra liste e così via, ma a Milano, secondo lei, la sua candidatura va vista anche come una svolta politica del centro-est, cioè si ricomincia da Milano? Cioè c'è un'unità. Oppure lei è un sindaco che rispetto per esempio ai toni di Salvini sulla sicurezza degli immigrati è un'altra cosa? Ci fa capire un po' il suo rapporto con il centrodestra, insomma? Il mio rapporto con il centrodestra è ottimo, nel senso che tutti insieme mi hanno chiamato, mi hanno voluto, hanno anche molto insistito, devo dire, perché ero abbastanza riluttante. Il mio rapporto con il centrodestra è un rapporto, io credo, lo credo, poi vedremo se quello che credo è vero o meno, credo che il problema che ha Giuseppe Sala non è tanto quello che pensa, perché penso che creda, che pensa cose abbastanza simili alle mie, provenendo poi da esperienze amministrative analoghe, ma credo che il suo problema sarà la realizzabilità di quello che pensa, perché lui ha una sinistra radicale che lo blocca, che ha bloccato Pisapia negli scali ferroviari e in tante altre decisioni, e l'essere subalterno a Roma. Io devo dire che da questo punto di vista, in questo momento, ma sarà così per i prossimi 5 anni, perché così è l'elezione diretta del sindaco, sono sicuramente più libero nella coalizione in cui lavoro e che rappresento. Sì. Nella realizzazione del progetto della nuova Milano che vogliamo realizzare. Oggi io mi sento veramente a mio agio, perché io penso di avere un grande supporto, una grande forza di spinta per vincere e per ripartire da Milano, per ricreare nuovamente quella fiducia che è venuta a mancare ormai da parecchi anni verso il centrodestra, che invece io penso che con il buon governo, con la moderazione, con la sobrietà e con l'attività anche ferme nei confronti dell'avversario, io ripeto. Ah, ma è chiaro. La gente credo che non ne possa più dello scontro e del violento tra politici. Che poi infatti vedremo questa campagna. Progetti. Abbiamo 20 secondi, Parisi, ci dica se ha in mente di fare anche una moschea nella nuova Milano. Sa che questo direi che proprio non è una priorità. Non è una priorità. E a calcio come stiamo? Perché lei è romano, a calcio. Bella domanda. A calcio come stiamo, Parisi? Questa domanda mi sembra abbastanza inutile, che la facciamo fare? Prego, mettere un po' di pepe. Diciamo così che non tengo né per l'internet. Diplomatico. Passera, lo imbarchiamo. Sono un'altra che sono anche molto antiviolentino. Che bello! Che bello, per quello che mi riguarda, che bello. Bene, anch'io sono milanista, ci siamo, Oscar quindi. Torinista, quindi ci siamo. Ma passera, lo imbarchiamo, Parisi? Che brutto termine. No, Corrado Passera è un amico e sta facendo un grande lavoro di elaborazione, di analisi. Vabbè, quindi messaggio apertura. La ringraziamo, Stefano Parisi. Grazie, ci dobbiamo fermare. Ci scusiamo, Giorgio da Cagliari, lo recuperiamo domani sul tema reversibilità, perché il tema rimane aperto. A domani.